Nell'attesa, e come se avesse a che fare con un uomo di mondo, Charlot continuava a esercitare le sue collere, vere o finte, ma ormai inutili. Non sempre, tuttavia, erano tali. Per esempio, un giorno, che si situa però dopo quel primo periodo, in cui il barone tornava con Charlie e me da una colazione dai Verdurin, convinto di passare la fine del pomeriggio e la serata con il violinista ad Ancières, il congedo di Morel, non appena scesi dal treno, con la frase «No, ho da fare», provocò in Charlot una delusione così forte che, sebbene cercasse di fare buon viso a cattiva sorte, vidi delle lacrime sciogliere il trucco delle sue ciglia mentre restava inebetito davanti al treno. Quel dolore fu tale che, siccome Albertine e io contavamo di finire la giornata ad Ancières, le dissi all'orecchio che avrei preferito non lasciar solo il signor di Charlot, che mi sembrava, non sapevo perché, rattristato. La cara piccina accettò di tutto cuore. Chiese allora a Charlot se non voleva che lo accompagnassi un po'. Anche lui accettò, ma rifiutò di essere per questo di disturbo a mia cugina. Provai una qualche dolcezza, e certo per l'ultima volta, giacché ero risoluto a rompere con lei, nell'ordinarle affettuosamente, come se fosse stata mia moglie, «Torna da sola, ti raggiungerò stasera», e nel sentire lei concedermi, proprio come una moglie, il permesso di fare come volevo e approvare se il signor di Charlot, al quale volevo molto bene, aveva bisogno di me, che mi mettessi a sua disposizione. Andammo, il barone e io, lui ancheggiando nella sua corpulenta persona, gli occhi bassi come un gesuita, io seguendolo, fino a un caffè, dove ci portarono della birra. Sentivo che gli occhi di Charlot erano fissati dall'inquietudine su qualche progetto. A un tratto chiese carta e inchiostro e si mise a scrivere con singolare velocità. Mentre riempiva foglio su foglio, gli occhi gli scintillavano d'una fantasticheria rabbiosa. Quando ebbe scritto 8 pagine, «Posso chiedervi un grande favore?» mi disse. «Scusatemi se chiudo questa lettera, ma è necessario. Prenderete una carrozza, un'automobile se possibile, per fare più in fretta. Sicuramente troverete ancora Morel nella sua stanza, dove è andata a cambiarsi. Povero ragazzo, ha voluto fare il gradasso al momento di separarci, ma siate pur certo che ha il cuore più gonfio del mio. Gli darete questa lettera, e se vi chiede dove mi avete visto, gli direte che vi eravate fermata ad Ancières, il che del resto è vero, per vedere Robert, e questo forse non lo è, ma mi avete incontrato con qualcuno che non conoscevate, che sembravo molto in collera, che vi è parso di sentire qualcosa circa un invio di padrini. Mi batto domani, in effetti. Soprattutto non ditegli che chiedo di lui. Non cercate di portarmelo, ma se vuol venire con voi, non impediteglielo. Andate, ragazzo mio, è per il suo bene. Potete evitare un vero dramma. Mentre sarete via, scriverò ai miei padrini. Vi ho impedito di passeggiare con vostra cugina. Spero che lei non me ne voglia, e credo che sia così, perché ha un animo nobile e la so capace di non rifiutare la grandezza delle circostanze. Bisognerà che la ringraziate a nome mio. Le sono personalmente debitore e sono lieto di esserlo». Provavo molta pietà per il signor di Charlot. Mi sembrava che Charlie avrebbe potuto impedire quel duello, di cui era forse la causa, ed ero indignato, se così stavano le cose, che se ne fosse andato con tanta indifferenza invece di assistere il suo protettore. L'indignazione crebbe quando, arrivando alla casa in cui alloggiava Morel, riconobbi la voce del violinista che, per bisogno di dare sfogo alla propria allegria, cantava a squarciagola: «Sabato sera, finito il lavoro!» Se l'avesse sentito il povero Charlot, il quale voleva far credere, probabilmente credeva, che Morel in quel momento avesse il cuore gonfio. Vedendomi, Charlie si mise a danzare di gioia. «Ah, vecchio mio, perdonatemi se vi chiamo così, con questa dannata vita militare si prendono pessime abitudini. Che fortuna che siate qui! Non so che fare della mia serata. Passiamola insieme, vi prego. Resteremo qui se vi fa piacere, oppure, se preferite, andremo in barca. o faremo un po' di musica. Io non ho preferenze. Gli dissi che dovevo pranzare a Balbec. Lui avrebbe voluto che lo invitassi, ma io non ero d'accordo. Ma se avete tanta fretta, perché siete venuto? Vi porto una lettera del signor di Charlieu. A questo nome, tutta la sua allegria scomparve. Il viso gli si contrasse. Come? Anche qui deve venire a scocciarmi? Ma allora sono uno schiavo. Vecchio mio, siate gentile. Non la apro questa lettera. Ditegli che non mi avete trovato. Non è meglio che l'apriate? Immagino che ci sia qualcosa di grave. No, 100 volte no. Voi non conoscete le menzogne, le astuzie infernali di quel vecchio filibustiere. È un trucco perché vada da lui. Ebbene, non ci andrò. Voglio starmene in pace stasera. Ma non c'è un duello domani? Chiese a Morel, pensando che fosse al corrente. Un duello? Replicò con aria stupefatta. Non ne so un accidente. E dopo tutto me ne infischio. Quel vecchio disgustoso può benissimo farsi ammazzare se ne ha voglia. Ma via, mi avete incuriosito. La guarderò, la sua lettera. Gli direte che l'avete lasciata qui, caso mai tornassi. Mentre Morel mi parlava, guardavo stupefatto i magnifici libri che gli aveva regalati Charlieu e che ingombravano la stanza. Poiché il violinista aveva rifiutato quelli che recavano il motto «Sono del barone», eccetera, motto che gli sembrava offensivo nei suoi confronti come un marchio d'appartenenza, il barone, con l'ingegnosità sentimentale di cui si compiace l'amore infelice, ne aveva utilizzati altri, provenienti dai suoi antenati, ma ordinati al rilegatore secondo le circostanze di una malinconica amicizia. A volte erano brevi e fiduciosi, come spes mea o aspettata non eludet. A volte semplicemente rassegnati, come aspetterò. Certuni galanti, même plaisir du maître, o con inviti alla castità, come quello preso dai Simian, sparso di torri azzurre e fiori di giglio e stornato dal suo senso, sustenant lilia turres. Altri, infine, davano disperati appuntamenti in cielo a chi lo aveva respinto in terra, manet ultima cielo, e in uno, trovando acerba l'uva a cui non poteva giungere e fingendo di non aver cercato ciò che non aveva ottenuto, Charlieu esclamava «Non mortale quod opto», ma non ebbe il tempo di leggerli tutti. Se Charlieu, gettando sulla carta quel messaggio, era parso in preda al demone dell'ispirazione che faceva correre la sua penna, Morel, non appena ebbe rotto il sigillo Atavis et Armis, su cui spiccava un leopardo accompagnato da 2 rose rosse, si mise a leggere con una febbre non inferiore a quella con cui Charlieu aveva scritto, e su quelle pagine riempite la meno peggio, i suoi sguardi correvano veloci quanto la penna del barone. «Oh, mio Dio!» esclamò. Non ci mancava che questo. Ma dove trovarlo? Sa Dio dove sarà adesso? Insinuai che se si fosse affrettato l'avrebbe forse ancora trovato in una brasserie dove aveva ordinato della birra per riprendersi. Non so se tornerò, disse Morel alla donna di servizio e aggiunse in petto. Dipende da come si metteranno le cose. Qualche minuto dopo arrivammo al caffè. Notai l'espressione di Charlieu nel momento in cui mi scorse. Vedendo che non tornavo solo, mi parve che gli tornasse il respiro, la vita. Non essendo quella sera d'umore tale da poter fare a meno di Morel, aveva inventato d'essere venuto a sapere che 2 ufficiali del reggimento avevano sparlato di lui a proposito del violinista e che stava per mandare loro i suoi padrini. Morel aveva visto lo scandalo. La sua vita al reggimento resa impossibile. S'era precipitato. In questo non aveva certo commesso un errore. Infatti, per rendere più verosimile la menzogna, Charlieu aveva già scritto a 2 amici, uno era Cotard, chiedendo che gli facessero da padrini. E se il violinista non fosse venuto, è probabile che, pazzo com'era, e per mutare la tristezza in furore, Charlieu li avrebbe mandati a caso da un ufficiale qualsiasi, con il quale avrebbe trovato sollievo a battersi.